Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. È il primo giorno del corso di italiano e i nuovi studenti stanno facendo il test di ingresso. Altri studenti parlano con i professori e con la segretaria. Gli esercizi del test sono difficili, ma Jenny non li deve fare tutti. Può smettere di scrivere e portare il test in segreteria quando vuole. La professoressa Eleonora incontra Jenny e l'accompagna in segreteria per completare l'iscrizione. La collega di lavoro di Jenny si chiama Anne ed Eleonora la conosce perché l'anno scorso l'ha invitata ad una cerimonia organizzata a Roma da sua figlia. Lucas e Maria devono spostare la data del ritorno a casa perché hanno lasciato il cane alla sorella di Maria, ma lei deve partire per un viaggio alla fine del mese. Quindi devono anticipare il ritorno di 5 giorni. Hanno bisogno di una scansione del biglietto ed Emma la fa per loro. Così Lucas e Maria possono mandarla all'agenzia dalla segreteria.